9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 5 gennaio, buon vigilia dell'Epifania, oggi Santa Amelia. Dunque, cosa succede di fronte alle ondate di affermazione dell'identità giovanile, si chiama così, di cui fa parte come rito più o meno ordinario ogni anno, e però in particolar modo quando gli anni diventano caldi per le cronache su riforme delle scuole, delle università, quindi quest'anno è particolarmente caldo, che le scuole vengano occupate, che un certo numero di scuole, di istituti superiori venga occupato dai giovani. Di solito la richiesta è avanzata come sperimentazione di moduli alternativi di socializzazione e di corsi aggiuntivi rispetto a quelli degli ordinari moduli didattici. Sicuramente queste possono essere le intenzioni di una minoranza della minoranza, perché le occupazioni poi vengono fatte da una minoranza, le minoranze illuminate sono convinte che questo possa essere la finalità dell'occupazione. Nella realtà sappiamo perfettamente, perdonate il cinismo, non ci sono giovani in ascolto, purtroppo a meno duole, questa è una trasmissione soprattutto rivolta alle loro famiglie, sappiamo in che cosa questo poi si risolve nelle esperienze di formazione di una generazione, una specie di Lebensraum. Un tempo c'erano i libri di formazione, oggi ci sono più dei libri di formazione, cose di questo genere qua, un rito abbastanza stanco. Quest'anno, per la particolare atmosfera che c'era nella scuola e nelle università italiane per la riforma Gimini, ha avuto un calore un pochino più intenso, e naturalmente però che cosa succede? Che quando poi si avvicinano le vacanze, i grandi impulsi ad affermare moduli alternativi ed esperienze di socializzazione svaniscono, perché di fronte alla vacanza voi capite bene che la vacanza è la priorità, e allora quando si tratta di riaprire poi si fanno i conti, i bilanci. Di che cosa? Di come è andata, di come ne è andata, ma soprattutto anche degli eventuali danni. E quando gli eventuali danni ammontano a decine o in taluni casi a centinaia di migliaia di euro, come si è letto in parecchi licei romani per esempio, allora si pone il problema di come procedere di fronte a centinaia di migliaia di euro di danni. Chi deve pagarli? Deve pagarli in teoria in uno stato che passerebbe per stato di polizia. Io sono per quello stato lì, dovrebbero essere individuati coloro che occupano, anche perché spesso c'è il problema di chi è dentro l'istituto e di chi viene da fuori l'istituto nelle occupazioni. Bisognerebbe sapere chi è stato e far pagare loro e le loro famiglie. Però naturalmente questo non si può fare, perché procedere all'accertamento dell'identità degli occupanti esporrebbe immediatamente il fianco a essere accusati di essere autorità, di sospettare che questi giovani angelici sperimentatori di moduli alternativi sono invece degli agenti del male, a reprimerli anche solo con l'accertamento della loro identità. Quindi di solito non si riesce a capire chi diavolo abbia davvero occupato questi istituti, chi provenisse dall'esterno, per quanto si è fermato, come e perché. Allora a quel punto l'alternativa diventa o far finta di niente e purtroppo doversi misurare poi con le risorse già scarse attribuite alle scuole, che diventano ancora più scarse di fronte al fatto che poi si distruggono suppellettoli, arredi, infissi, porte, finestre, lavagne, computer per chi ce l'ha, laboratori per chi ce l'ha, oppure dire no, qua bisogna in qualche maniera fronteggiare l'evenienza, e bisogna che a quel punto in qualche maniera le famiglie paghino. E come si fa a quel punto? Allora, il dibattito che si è acceso sui giornali romani, queste sono tutte cose che abbiamo visto sul Corriere della Sera a Roma, prevede che in alcuni licei, anzi in particolare in un liceo, il liceo Gelasio Caetano di Roma, è passata una linea. E noi abbiamo con noi il preside Nardo Nardoni, che ringrazio, e nel ringraziarlo gli cedo immediatamente la parola per illustrarci la linea che è passata. È una linea che fa discutere molto. Io vi chiedo se voi sareste d'accordo nel sottoscrivere e sottoporvi alle misure di questa linea, e poi abbiamo subito con noi, perché ci deve immediatamente lasciare, quindi intanto il preside ci dice che linea è passata, e poi abbiamo l'assessore alle politiche della scuola della provincia di Roma, Paola Rita Stella, a quale chiederemo invece le istituzioni a quel punto che possono fare. Ma signor preside, buongiorno, innanzitutto qual è la linea adottata nell'istituto che guida il liceo Gelasio Caetano di Roma? Quanto ammontano i danni e come vi farete fronte, con quale sborso per le famiglie? Buongiorno professor Giannino, e buongiorno anche a chi ci ascolta. danni ammontano, ovviamente non abbiamo fatto ancora una stima precisa, perché questa strana situazione astrale delle vacanze, due giorni di vacanza, due giorni di attività didattiche, non ci ha permesso di fare una stima precisa. Ma i danni sono ingenti, ammontano a 200-300 mila euro. Comprensivo ovviamente della roba rubata, asportata, distrutta e della situazione generale della scuola. Chi paga? Chi paga? Il consiglio di istituto ha deliberato che in questo momento danno un contributo straordinario, versino un contributo straordinario alle famiglie di 50 euro di tutti gli alunni per ripristinare in questo momento. Io ci tengo a deideologizzare tutta la cosa, qui non si tratta di fare questioni di principio, chi è giusto, chi non è giusto, si tratta che il 10 gennaio la scuola deve ricominciare, e per ricominciare la scuola con dei laboratori che siano efficienti c'è bisogno di denaro fresco che in questo momento può arrivare soltanto da una compartecipazione diretta degli alunni. Allora, 50 euro io la fermo per il momento qua. 50 euro a testa per tutte le famiglie, qualunque cosa abbia fatto vostro figlio, non vostro figlio, abbia partecipato, non partecipato, fare l'occupazione sono naturalmente una minoranza. 50 euro è un risborso patrimoniale aggiuntivo e straordinario, perché altrimenti è un liceo linguistico, questo spiega i danni particolari, computer, laboratori linguistici e così via. Diteci come la pensate di fronte a una linea di questo tipo. Adesso facciamo parlare un secondo l'assessore, a cui chiediamo invece quali risorse ordinarie e straordinarie nel caso dell'assessore alle politiche della scuola della provincia di Roma, Paola Rita Stella. Sono parecchi i licei e quindi se il conto in un solo liceo è di diverse centinaia di migliaia di euro, qua si parla di cifre considerevoli. Che si fa in questi casi quando le risorse sono già scarse, assessore Stella? Buongiorno professore e a tutti gli ascoltatori. Guardi, in questo caso devo dire che la provincia di Roma ha una competenza su 384 sedi di istituzioni scolastiche e quindi il patrimonio è abbastanza oneroso. In questi casi noi interveniamo subito, il preside Nardoni anche che ci ascolta lo sa, stiamo intervenendo con i nostri uffici tecnici per ripristinare la funzionalità dell'edificio, in quanto è di nostra competenza e di nostra responsabilità. Per le attrezzature dei laboratori invece questi competono all'amministrazione dello Stato, quindi al Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso i contributi che arrivano alle scuole stesse. Noi ci siamo preoccupati subito per far sì che le scuole siano funzionali dal punto di vista della fruibilità delle aule, e quindi chiediamo anche ai presidi di collaborare con noi, ai dirigenti scolastici, ai docenti, di darci una priorità sugli interventi da fare. Per cui siamo sempre a disposizione insieme agli altri soggetti che sono partecipi della scuola, insieme ai studenti, insieme anche ai genitori, a collaborare e a venire incontro a risolvere le problematiche. Ma in questo caso il cuscinetto di disponibilità aggiuntive per danni di questo tipo a che percentuale potrebbe ammontare delle risorse che ho destinato? Guardi, come dicevo prima, noi non siamo tenuti al rendimento dei laboratori, quindi già le nostre risorse e i nostri bilanci sono scarsi in questo momento. Certo, un contributo straordinario per il Caetani si potrebbe anche pensare, ma nel momento in cui pensiamo al liceo Caetani, poi ci sono tutti gli altri licei che stanno nelle stesse condizioni. Quindi io direi che per quanto ci riguarda noi faremo del tutto per far sì che le scuole siano funzionali. Per i laboratori, per gli arredamenti possiamo vedere di fare un incontro anche con i dirigenti scolastici, e nelle situazioni più gravi vedere se è possibile dare un aiuto o trovare una soluzione che possa anche responsabilizzare però i ragazzi e le famiglie, in quanto la scuola è la loro E io credo che i ragazzi, nel momento in cui vengono responsabilizzati e soprattutto si rendono garanti anche in questo momento di occupazioni, che è loro, un loro sacrosanto diritto di esprimere le loro idee e di chiedere le cose che per loro sono più quello che loro vogliono esprimere, nel momento in cui però c'è questa possibilità, c'è questa disponibilità dalla scuola di far fare le autogestioni, anche i ragazzi si devono in qualche modo sentire responsabili e tutelare i luoghi della loro formazione. Posso chiederle un'opinione? Posso chiedere un'opinione, assessore, per finire sull'idea che è passata in consiglio di istituto? Lei è favorevole al fatto che a quel punto tutte le famiglie tirano fuori 50 euro a testa? Le chiedo una valutazione che naturalmente è al di fuori delle sue competenze istituzionali, si tratta di questo, si tratta come cittadino, politica e come madre, se è madre o comunque come componente di una famiglia, che pensa? Beh, guardi, credo sicuramente in questo momento è una situazione difficile, quindi anche le famiglie sopportano tante spese per poter mandare a scuola i loro figli, però io credo che questo potrebbe essere un momento di condivisione di un problema, di difficoltà che la scuola sta attraversando, e come ho letto anche dalle dichiarazioni del preside del Caetani, e questo potrebbe essere soltanto un anticipo per poter far funzionare i laboratori e quindi dare ai ragazzi la possibilità. Per cui io credo che è una decisione che ha preso il Consiglio d'Istituto di responsabilità nei confronti anche dei loro ragazzi, perché hanno bisogno di continuare gli studi e la didattica. Io non condanno questa decisione presa dal Consiglio d'Istituto del Caetani, nello stesso tempo però dico che forse bisognerebbe affrontare queste situazioni con più coinvolgimento dei soggetti. Quando si presentano le forze studentesche, i consigli d'istituto, i genitori, la scuola, è un momento che abbiamo passato un mese in particolare. Forse dovevamo, per quanto ci riguarda come provincia, abbiamo iniziato un percorso di ascolto, abbiamo parlato con tutti gli studenti che hanno voluto esprimere le loro richieste, e quindi penso che poteva essere anche questa una via di poter meglio fronteggiare la situazione, e soprattutto però, ripeto, i ragazzi che sono dell'istituto si devono rendere garanti, devono essere le sentinelle della loro scuola e non far dare modo di infiltrare persone che non c'entrano niente, quindi si approfittano grazie alla signora Paolo Tassella. Io devo dire la verità, siccome sono stato studente, ho fatto politica quando ero giovanissimo, ero un giovane repubblicano, quindi cerchiamo di capirci che nei primissimi anni 70 nei licei che frequentavo, il liceo che frequentavo a Torino, diciamo, e noi eravamo alla frontiera, perché non eravamo né di destra né di estrema sinistra, all'epoca c'era parecchia violenza, eppure nel nostro liceo, che era un liceo di altissima tradizione a Torino, siamo sempre riusciti a evitare danni, quasi sempre. Non abbiamo avuto fenomeni di grande occupazione, eravamo oltretutto, soprattutto quelli che facevano politica, molto autoconsapevoli del fatto che le occupazioni vengono dichiarate come una specie di diritto degli studenti. Noi non credevamo affatto che fosse un diritto degli studenti, a dire la verità. Continuo a pensare che non sia un diritto degli studenti quello dell'occupazione, ma io vengo evidentemente da un altro mondo. Eravamo soprattutto consapevoli in quegli anni in cui giravano pistole e giravano molotov, ci scappava il morto nelle manifestazioni a Torino, Roma, Milano sono stati i tre epicentri della violenza politica, prima giovanile, poi anche terroristica, per lunghissimi anni purtroppo nel nostro paese. E noi, che avevamo il compito davvero di allertare tutti tutti i sensori nel nostro liceo, all'interno e all'esterno, sapevamo che non avremmo mai potuto impedire a quel punto che dall'esterno qualche violento, in quel caso non solo per danneggiare i suppellettili, per fare le scritte che sono al liceo Caetani e in molti altri licei italiani occupati, all'epoca la situazione di tensione era enormemente più alta, noi sapendo questo le occupazioni non le facevamo, ecco per dirvi, perché io non credo che noi possiamo incardinare sugli studenti o sulle studentesse, il Caetani è fatto da molte studentesse, un liceo linguistico, la responsabilità a quel punto di impedire loro a scuola occupata che siano estranei e malintenzionati a entrare, danneggiare, rubare, distruggere o far di peggio. Il problema è che forse bisognerebbe accertare chi li fa le occupazioni. E a quel punto però immaginate cosa fosse capitato se un preside, il preside del Caetani avesse detto: bene, mettiamo la polizia all'ingresso, liberi di occupare per quanto sono i giorni stabiliti, però gli ingressi vengono disciplinati dalle forze dell'ordine. Sapete benissimo cosa verrebbe detto: che un paese di quel tipo è un autoritario residuo di regimi pericolosi, che i ragazzi sono liberi, eccetera. Dopodiché l'alternativa è che in questo liceo di grande responsabilità il Consiglio di Istituto dice: vabbè, allora mettano tutti mano al portafoglio. Io mi metto anche nei panni delle famiglie che hanno la maggioranza dei figli, dei studenti che non hanno fatto l'occupazione, che a quel punto dicono: e devo pure tirare fuori 50 euro, che è un po' come la patrimoniale posta da Amato per il debito pubblico, per così dire. Io sono contrario, perché vorrei dei politici responsabili, e in questo caso vorrei che tutto il meccanismo ispirasse a mio figlio o a mia figlia il dovere di una responsabilità. Dovere significa che ci sono delle cose che non si fanno, e siccome però non ci si può solo affidare all'autocontrollo, bisogna impedirle. Capisco che è un po' complicata messa così. Sentiamo come la pensa una prima ascoltatrice, e poi da questo momento in poi facciamo parlare molto il preside, perché gli abbiamo fatto solo illustrare la linea, ma la valutazione del come e del perché, si è arrivati all'occupazione, si è stabilito di farla così e cosà, di come siano poi prodotti i danni, e anche della valutazione del pensiero della giustizia dell'imporre, del chiedere però a tutte le famiglie 50 euro, non l'abbiamo ancora ascoltato, quindi d'ora in poi parla lui. Iniziamo con voi ascoltatori che gli pongono alcune osservazioni da parte loro. La prima che ci ha chiamato è Valentina, che ci chiama da Treviso. Che pensa Valentina? Buongiorno dottor Giannino, per prima cosa io vorrei smentirla sul fatto che i giovani non l'ascoltano. Io ho 24 anni e mi reputo ancora parte della categoria. Vabbè, la ringrazio molto, l'eccezione l'ho detto anche per consapevolezza, perché è una fascia d'età e una fascia oraria la nostra in cui gli ascolti, ci dicono i sondaggi, sono soprattutto tra chi va al lavoro in macchina, eccetera eccetera, quindi insomma i giovani o sono all'università o sono a scuola, oppure sono anche loro nella fascia di chi lavora, e allora solo in quanto questa terza fascia e la nostra caratteristica dell'ascolto giovanile, però le eccezioni ci sono e io spero che si allarghino. Comunque l'ho interrotta, prego Valentina. In realtà volevo dirle che secondo me esistono anche delle forme, diciamo, gestibili di autogestione, di occupazione. Quando io ero al liceo un anno ci è stata proposta la cosiddetta cogestione, abbiamo potuto avere i nostri corsi, tutte le nostre espressioni, eppure c'erano con degli insegnanti, c'era la giustificazione per uscire. Abbiamo un po' brontolato quando ci è stata proposta, però le assicuro che su tutte le autogestioni è l'unica che mi ricordo, di cui ricordo qualcosa, perché per il resto si stava lì a giocare a carte, perché poi le autogestioni così finiscono se non sono controllate. Però ecco, in realtà se deve essere una forma di... Quindi lei dice questa formula della cogestione anche... si può studiare, perché almeno dà più responsabilità, consente un maggior controllo, è così. Noi andavamo a scuola e dovevamo giustificare se non c'eravamo, quindi non era l'occasione di fare vacanza. Avevamo i nostri corsi, li potevamo organizzare, trovare i nostri insegnanti, degli esperti, però è stato diverso e secondo me è un'occasione valida, insomma. Perfetto, quindi prima domanda anche per il preside: perché non pensare a formule di cogestione? Tommaso, che ci chiama da Roma. Prego Tommaso. Sì, buongiorno, io condivido quello che ha fatto il preside sotto un profilo pratico, perché comunque avrei fatto io allo stesso modo, avrei rimesso in piedi la scuola in tempi rapidi ed è l'unica soluzione. Non condivido sotto un profilo più generale: chi sbaglia paga, è dal diritto romano che è così. Assessore, la prego, non usi i miei soldi per pagare i danni che non ho causato io, non usi il suo tempo, non usi il tempo dei suoi dirigenti. Io devo dire la verità che mi ritrovo un po' su questa linea di Tommaso, perché altrimenti qua le occupazioni diventano diritti collettivi, i danni vengono inflitti da anonimi sotto lo scudo del diritto collettivo e a pagare poi siamo noi. Insomma, mi sembra una linea un po' singolare, non so come dire. Sentiamo Paolo da Milano invece come la pensa. Prego Paolo. Eccomi, allora buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo dire questo, da un punto di vista anche della preparazione. Che io sappia, solitamente le occupazioni durano dai 20 ai 30 giorni. Se questi vengono spalmati nell'arco dei 5 anni, ci rendiamo conto che su una, diciamo, istruzione di 5 anni, più o meno un anno viene perso. Questo a rigor di logica. Per quanto riguarda invece il discorso degli studenti e delle occupazioni, logicamente per coinvolgere le famiglie, come mi è capitato in altre situazioni, addirittura all'elementare o alle medie, vanno fatte delle pressioni su quello che sono i genitori. Cioè, i genitori non si possono dimenticare che hanno dei figli a scuola, sono a scuola e tutto va bene. Se io so che domani mio figlio è in una scuola dove si fa occupazione e dopo, voglio dire, mi vedo che sta a casa un mese, io mi aspetto anche che ci sia un direttore scolastico che comunque prenda determinati provvedimenti e decisioni. Invece spesso i direttori scolastici, e questo lo dico sempre per esperienza, subiscono delle pressioni e spesso e volentieri anche delle minacce, e fanno correre tutto così in sordina e dicono va bene, quando è finita, tanto non è poi alla fine un grande problema mio, e tanto poi i soldi arriveranno, se mancano 10 computer perché si sono rotti faranno meno dei 10 computer e andranno avanti con quelli che ci sono. Ecco, questo è un altro aspetto che Paolo ci consegna e che giro al preside, la deresponsabilizzazione di un meccanismo di questo tipo. Ripeto, questo meccanismo si pone il giusto problema di commisurare gli oneri, di renderli noti alle famiglie e di dire guardate qua i soldi non ce ne sono e quindi o troviamo un modo oppure all'apertura della scuola i laboratori non sono in condizioni di essere ripristinate per offrire il servizio formativo ai vostri figli. Che si fa? Volete pagare? Pagate 50. Questa è una linea di responsabilità, perché altrimenti la linea prevalente nella scuola italiana sarebbe di fare la grande geremiade e di dire signori è tutto rotto, non so che cosa farci, prendetevela con la politica, con le amministrazioni di livello più elevato. Invece qua c'è una linea di responsabilità che propone una soluzione. Però il meccanismo generale che non individua i responsabili e non basato sul chi rompe paga è un meccanismo che trasmette ai giovani l'idea che in definitiva minoranze di irresponsabili possono commettere abusi, si chiamano reati a dire la verità nel mio paese, anche se poi ai ragazzi pare quasi che sia un peccato chiamare le cose con il loro nome, sono dei veri e propri reati, ecco. Allora, si possono commettere dei reati sotto lo scudo della totale irresponsabilità. Questa è una cosa che mi piace poco, perché significa che i ragazzi, una volta che passano per un'esperienza di formazione di questo tipo, dicono nella loro testa, oppure molti di loro possono comunque ritenerlo, ma questo è il meccanismo attraverso il quale funziona l'identificazione delle responsabilità e l'incardinamento degli oneri per le responsabilità di ciò che si fa e non si fa negli atteggiamenti collettivi di fronte ai beni pubblici. Ecco, questa è la mia domanda. Ora abbiamo un brevissime pause di pubblicità, perché in questo periodo avete sentito che il carico pubblicitario è minore, quindi la trasmissione è più lunga, e poi iniziamo a dare la parola al preside per farvi rispondere. Alcuni ascoltatori molto caustici dicono ma perché non addebitarli sul conto del Quirinale, tanto Re Giorgio Napolitano che dice che bisogna ascoltare tutti gli studenti, la FIOM eccetera eccetera, neanche se ne accorda. Allora, non facciamo considerazioni improprie, non è questo il punto. Io sono del parere dell'ascolto, però sono della linea che ai giovani bisogna spiegare con atteggiamenti concreti che chi infrange le regole è fuori dalle regole e se ne deve addossare le responsabilità. Credo che sia un fondamento di un meccanismo educativo. Però intendiamoci, chi è d'accordo quando e se un insegnante propone di rispondere con cautele di questo tipo alle occupazioni? Nessuno, perché quell'insegnante si espone o il dirigente scolastico, peggio ancora, si espone all'accusa di essere un autoritario, di dare una risposta negativa alle legittime istanze degli studenti. Avete sentito con quale accortezza prima il politico ha detto che è un diritto degli studenti l'occupazione? Ma sancito da che? Qualcuno mi faccia vedere la tavola mosaica in cui c'è scritto che è un diritto occupare le scuole e le università da parte di minoranze. Secondo me non è un diritto, perché questa è la questione. Dopodiché, se non è un diritto, bisognerà con chi propone di farlo, eventualmente con certa durezza e severità, parlare e discutere di cosa vorreste fare, se volete mettervi in condizione che vi autorizziamo per pochi giorni di farlo. Non lo so, io ragiono così, ma sono un vecchio relitto. Allora, signor Presidente, intanto iniziamo a dare qualche risposta alle domande e alle considerazioni che ha sentito, poi ce ne sono altre. Prego. Lei ha messo, avete messo sul braciere un'infinità di domande, di suggestioni e anche di problemi. Allora cercherò di essere breve. Intanto, come vi dicevo prima, bisogna deideologizzare tutta la cosa. Diceva Brecht che se i fatti non coincidono con le nostre idee, peggio per i fatti. In questo caso dobbiamo tornare ai fatti e metterli in ordine. Allora, punto primo. La scuola che cosa fa? La scuola intanto non è vero che non sente gli studenti. Io nel periodo precedente sia l'autogestione che l'occupazione avevo dato gli spazi. Voi sapete che la scuola prevede la legge degli spazi aperti il pomeriggio e i ragazzi potevano usufruire degli spazi dei locali della scuola il pomeriggio per discutere, per animare le loro attività, per fare le loro attività. Me l'hanno chiesto una sola volta e poi non l'hanno fatto più. Evidentemente andare di pomeriggio e quindi fare anche i compiti era troppo per loro. Quindi questi spazi di ascolto, ma lo porto soltanto a motivo di esempio, non è certamente dirimente, ma è uno degli aspetti, insomma, non ci sto, ecco, non è così. Punto secondo, la cogestione. Qua mi dispiace essere un pochettino ad entrare in certe tecnicalità, ma mi rivolgo a lei come collega professore, perché lei neanche insegna all'università. È necessario spiegare a chi non sa che ci sono delle norme a cui bisogna attenersi, quindi non si preoccupi. Delle tecnicalità, cogestione significa che i professori debbono fare, invece che fare l'insegnante di italiano, l'insegnante di filosofia, l'insegnante di greco, l'insegnante di latino, debbono fare, non so, l'insegnante di cinema, l'insegnante di chitarra oppure l'insegnante di vattene a pesca. Questo non tutti i professori lo vogliono fare. Allora, che potere ha il preside di convincere, di costringere i professori a fare la cogestione, a cogestire insieme ai ragazzi come attività cosiddette alternative? Non c'è nessuna forma di costrizione, ecco. Rimane tutto a livello della volontà individuale, per cui ci sono la macchia di Leopardo, un professore che lo fa, un professore che non lo fa, un professore che lo fa solo quando vuole, un altro professore che lo fa se lo vuole, e poi ci sono gli studenti, che sono un'altra variabile del discorso. In una classe di 30 persone, perché io ho una scuola dove ci sono in classi anche 30 alunni, lei sa benissimo, perché la vedo passare spesso lì sotto da noi, è il centro di Roma, quindi abbiamo classi super affollate. Su 30 persone ci sono chi vuole fare chitarra, chi vuole fare sanscrito, chi vuole fare lingua buddista, insomma, No, diventa difficile organizzare queste forme di concessione, quindi anche questa strada secondo me non è praticabile, o non sempre praticabile, pena una defatigante opera di non so, di convincimento, di mediazione continua, che non è proprio il quid lo specifico della scuola. Terzo punto, quello che abbiamo detto tante volte, è l'occupazione, l'autogestione. C'è adesso la legge sui due terzi, sul famoso terzo delle assenze, no? Sì. Ci sono, pare che ci siano dei professori che abbiano fatto adesso questo debba curare, perché ripeto, il periodo è quello lì. Ci sono dei professori che hanno fatto fare le presenze ai ragazzi e poi i ragazzi se ne sono andati. Per cui hanno fatto anche dei reati, anche i professori stessi hanno fatto delle cose che non andavano fatte, a rigor di logica. Questo adesso naturalmente lo appurerete. Nel corso del tempo lo appureremo, perché giustamente questo è uno stato di diritto e le responsabilità sono individuali. Ma io come dirigente, come capo di istituto, il consiglio di istituto, come ente di gestore della scuola, ha il dovere di ripristinare le cose. Non è vero che una scuola, io l'ho detto l'altro giorno a qualche giornale, che io e Napolitano ci siamo laureati a suo tempo senza i laboratori, ma era chiaramente la mia una provocazione un po' passatista, per dire che in qualche maniera dobbiamo ripristinarli questi laboratori. Non si può continuare a pensare di fare una scuola moderna, una scuola degna di questo nome, senza le tecnologie con lavagna e pareti. Solo con la lavagna e con il discorso che ha fatto. E quindi lei dice, insomma, di fronte a questo apprezzate almeno il fatto che... Esatto, Di fronte a questo c'è bisogno di soldi freschi, cash, money, soldi, come chiamatelo come vi pare. Chiarissimo, insomma. Chiarissimo. Allora, un secondo, sentiamo un po' come la pensa. Abbiamo con noi Mariano Di Palma, che è uno studente dell'esecutivo nazionale dell'UDS, cioè l'Unione degli Studenti, e gli chiedo proprio fuori dai denti: di fronte a questa linea del liceo Caetani, fa precedente, secondo lei, del precedente positivo che siano le famiglie al Consiglio d'Istituto per delibera a tirare fuori 50 euro a testa di fronte ai danni delle occupazioni, oppure secondo lei è un meccanismo sbagliato? Ma guardi, secondo noi è evidente che intanto quello che è successo negli ultimi mesi non deve essere generalizzato sotto alcuni casi, diciamo, di devastazioni delle scuole, perché sono state veramente su centinaia di scuole occupate, pochissime quelle dove sono successe dei danni all'interno delle scuole, e molte volte sono state fatte da gruppi organizzati che non erano particolarmente contrari al provvedimento della Gelmini, ma anzi, come dire, in realtà lo avallavano, e hanno utilizzato il movimento studentesco di questi mesi proprio per strumentalizzare quella che è stata la lotta degli studenti e delle studentesse di questi mesi all'interno delle scuole. Io non conosco né l'entità dei danni né la gravità dei danni, dico soltanto che noi paghiamo ogni giorno sulla pelle difficoltà e soprusi, non tanto in termini sanzionatori all'interno delle scuole, ma in molte scuole anche questo, ma soprattutto l'alto costo civile e personale che ognuno di noi vive quando la riforma Gelmini, il ministro Tremonti tagliano in maniera indiscutibile sulla scuola pubblica, sull'università e sulla ricerca, e noi ci ritroviamo con classi per affollate, con scuole senza laboratori, perché sarà un caso che al liceo Caetani, all'istituto Caetani ci siano i laboratori, ma ci sono moltissime scuole in Italia dove la gente, non è uno scherzo dire che rischia la vita tutti i giorni, che studiano in palazzi, in scantinati. Guardate, le mobilitazioni di questi mesi parlano comunque di tantissime studentesse e studenti che sono del 94, del 95, del 96, cioè di un periodo di una generazione che è cresciuta dopo la caduta del muro di Berlino e che quindi ha poco a che fare con le ideologie. Invece parliamo di studentesse e studenti che provano a difendere il loro futuro, e l'hanno fatto per 3 mesi. Io penso che oggi c'è anche il vincolo a 50 assenze, siano inasprite le sanzioni, il voto di condotta, gli inasprimenti sullo statuto delle studentesse e degli studenti. Se ci sono migliaia di studentesse e studenti che invece sono scesi in piazza e hanno occupato le proprie scuole, non è stato per gioco. È stato perché c'è un innegabile, consapevole ma anche inconsapevole, priorità degli studenti di difendere qualcosa che anche a livello epidermico si sa che si sta venendo tolto. Quello che oggi sta venendo tolto è il nostro futuro. Mariano, io agli atti, per così dire, siccome non stiamo parlando di questo, ed è la premessa che ho fatto, è che c'è una condizione oggettiva delle generazioni nel mercato del lavoro, nelle condizioni della scuola, nel fatto che la scuola, l'università, la scienza sociale non funziona, quindi non stiamo parlando di questo. Però tu stesso hai detto, poiché alcune di queste proteste danneggiamenti, sfociate in danneggiamenti, possono essere magari fatte da chi, non sappiamo da chi, perché poi c'è chi si infiltra nelle scuole, magari gruppuscoli che a favore erano della riforma e poi invece danneggiano. Quindi qui c'è il problema di quando le situazioni sfuggono di mano nelle scuole occupate, nessuno può accettare di chi è il danno. Ma in questo caso il danno va considerato, secondo te, una specie di collaterale ridotto, minore rispetto all'ampiezza del movimento degli occupanti e delle occupazioni e di quello che viene, delle istanze che sono espresse in occupazioni, e di che cosa vuol dire come esperienza di formazione, perché tanto questo è anche una delle cose. C'è un danno collaterale da considerare come cosa che a quel punto, siccome non sappiamo chi è stato, lo mettiamo nel bilancio ordinario, oppure secondo te ci deve essere un meccanismo di responsabilizzazione? Questo è proprio... Ci deve essere un meccanismo di responsabilizzazione che secondo me non deve gravare troppo sulle teste degli studenti in termini di peso economico. Cioè, è chiaro che se si tratta tratta di rimbattare i muri della scuola, di fare alcune attività che possono consentire anche di utilizzo sociale, un'attività di impegno degli studenti all'interno della scuola, soprattutto se si riesce a creare un meccanismo di individuazione delle responsabilità, cioè senza, come dire, punire eccessivamente, perché anche chi probabilmente era all'interno della scuola, a meno che non sia stato un infiltrato e ha devastato il locale, lì c'è un problema grande, sicuramente devono essere applicate le sanzioni, ma io sicuramente nei regolamenti di istituto le sanzioni che puniscono chi ha fatto questo genere di cose ci sono già e ci sono all'interno dello statuto delle studentesse e degli studenti, quindi basta soltanto applicare quello che è oggi la norma vigente. E il problema è sapere chi è stato. Che dico in più è provare a porsi il problema di perché oggi succede questo. Però il problema è che distruggere, come è avvenuto al Caetano e in altri licei romani, distruggere il computer, portare via tutto il portabile, non ha niente a che vedere con la richiesta di una scuola migliore. Ripeto, non sto parlando della generalità dei casi, però quando ci sono casi in numerosi, importanti licei di grandi città e il problema del dirigente scolastico lì a quel punto è: cosa faccio? Faccio finta di niente? Lo attribuisco all'istanza democratica? No, e allora il problema c'è. E oltretutto, siccome ci siamo passati tutti, questo è uno degli aspetti delicati di fronte ai quali le famiglie devono responsabilizzarsi. Quando tuo figlio ti dice abbiamo deciso l'occupazione, il problema è: bene, voglio capire in che forme avviene, chi è che identificherà le forme attraverso le quali verranno disciplinate e condotte le attività. Allora a quel punto per le famiglie il problema è mettersi in moto, capire, metterci tempo, testa, cuore e passione insieme ai vostri figli, perché altrimenti se state alla comunicazione e aspettate di capire quel che succede, direte naturalmente che vostro figlio non c'entra niente, perché questa è la risposta generale che viene dalle famiglie italiane, ma il problema è che non lo saprete. E a quel punto di fronte ai danni direte: ah, paghino i cattivi, naturalmente mio figlio no. Ecco, questa è una società nella quale tutti si girano dall'altra parte, o comunque moltissimi ci si girano dall'altra parte, mentre a quel punto bisogna porsi il problema di dare un po' di tempo e di attenzione al dirigente scolastico, ai professori, che a quel punto di fronte all'occupazione il più delle volte si trovano con strumenti spuntati e devono semplicemente affidarsi alla buona volontà e al fatto che ci sia qualche studente particolarmente capace di coordinare gli altri e di organizzarsi la notte per impedire che qualcuno, o per un po' di socializzazione, chiamiamola così, o per un po' di voglia di scassare, rompere e rubare, e a quel punto faccia i danni veri. E per evitarlo bisogna auto-organizzarsi, però dal basso, le famiglie insieme ai professori, più che affidarsi allo spirito degli studenti che ci passano per la prima volta senza avere un preciso controllo di quello che avviene. Le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci, siamo tornati in studio su questo problema del danno delle occupazioni. Chi paga? 50 euro a famiglia deliberati dal Consiglio istituto del Liceo Gelasio Caetani di Roma. Abbiamo con noi il presidente Nardo Nardone, abbiamo sentito l'assessore alle politiche della scuola della provincia di Roma, Mariano Di Palma, lo studente dell'esecutivo nazionale dell'Unione degli Studenti, e con noi anche il preside dell'Istituto Meucci di Carpi, il professor Paolo Davoli. Al professor Davoli chiedo: la vostra esperienza è qual è stata? Che ne pensa dei meccanismi di individuazione delle responsabilità di eventuali danneggiamenti e del corrispettivo in termini di denaro? Come lo dobbiamo considerare? A carico dell'ordinaria amministrazione o si può, ed è giusto, pensare anche a forme straordinarie di anticipazione come hanno fatto al Liceo Caetano di Roma? Che pensa il professor Davoli? Intanto buongiorno, intanto tutto il mio affetto e la mia solidarietà al collega di Roma per questa situazione davvero, davvero impegnativa che si ritrova ad affrontare. La situazione di fronte a cui siamo ritrovati noi è viceversa molto molto più blanda, molto più tranquilla, nel senso che ci sono state forse danneggiamenti per poche centinaia di euro alle macchinette distributori delle merendine e di quindi niente che metta in discussione l'ordinaria continuità, insomma, assolutamente nulla. No, devo dire che da questo punto di vista l'occupazione, pur essendo un'esperienza, chiamiamola così, al limite, è un'esperienza che è comunque passata senza lasciare tracce così così drammatiche. Insomma, detto questo, però, credo che sia importante riflettere con gli studenti, anche noi l'abbiamo fatto in consiglio d'istituto, per chiedergli di assumersi le loro responsabilità, ed è una cosa che faranno. Il problema non sono, nel nostro caso in particolare, appunto qualche centinaio di euro di danni, ma richiedere ai ragazzi la consapevolezza del fatto che la strada di protesta che loro hanno intrapreso, in qualche misura, se mi passate il termine, richiede un rigore morale molto maggiore di quello che chiediamo normalmente agli studenti. Cioè, se fai queste azioni di protesta non puoi mescolarle o lasciarle mescolare perché qualche cretino dall'esterno ti entra dentro, con il vandalismo e con il menefreghismo verso le cose degli altri e della collettività. Cioè, il concetto è che non esistono diritti anche per gli studenti, non esistono diritti senza responsabilità, insomma. E lei, insomma, se vuoi il diritto di protestare, sì, devi assumerti la responsabilità di mantenere la protesta all'interno delle regole civili e del rispetto delle cose e delle persone. E devo dire che i miei studenti, diciamo i responsabili dell'occupazione, i ragazzi in consiglio istituto responsabili dell'occupazione, erano probabilmente più mortificati di noi per questa deriva di qualche piccolo danneggiamento, però pur sempre danneggiamento che lascia un'ombra sulle loro intenzioni e sulle loro, ecco, quindi loro l'esperienza del professor Davoli dell'istituto Meucci di Carpi è che con un dialogo diretto che si appella alla responsabilità degli studenti è possibile non solo radicarlo nella loro coscienza, nella loro formazione successiva, ma ottenere risultati concreti, cioè una forma di sensibilità che porta alla autoconsapevolezza, magari anche alla messa in atto di accorgimenti organizzativi quando le occupazioni avvengono, tali da impedire che poi questo fenomeno diventi un fenomeno collaterale, ma anche molto importante, talvolta che sfugga completamente di mano, come è avvenuto in alcuni istituti a Roma. Intanto io devo dire al professor... Questo discorso del dialogo e anche dell'ascolto dei ragazzi, ho sentito che prima lo citavate, cioè secondo me è importante ascoltare i ragazzi, e attenzione, ascoltare i ragazzi non significa sbamboleggiarli, chiaro. Giustificarli in tutte le loro cose. L'ascolto che dobbiamo dare è un ascolto esigente, perché se io ti ascolto poi tu devi avere delle cose da dire, da argomentare, da spiegare, e non soltanto degli slogan. E quindi ascoltare gli studenti è una cosa impegnativa per noi, perché magari ci dicono cose su cui non siamo d'accordo, ma impegnativa per loro, perché in qualche maniera significa aiutarli a crescere nella via della democrazia, e quindi far uscire tutti dalla via degli slogan. Insomma, e tra l'altro i ragazzi hanno a disposizione nella vita ordinaria della scuola, insomma, degli strumenti di democrazia importanti che purtroppo non sempre vengono usati. Insomma, i loro rappresentanti hanno le assemblee di istituto e di classe, hanno una serie di diritti e di doveri che sono dati dallo statuto delle studentesse e degli studenti. Sarebbe importante anche riuscirli a recuperare, a farli funzionare. Il professor Nardoni, il presidente del Gelasio Caetani di Roma, ci ricordava poi che i tempi previsti ordinariamente come per le attività supplettive degli studenti in realtà non vengono utilizzati. Anche questo fa parte di una ordinaria capacità di sapere radicare negli studenti, a fronte delle loro istanze, proteste, sensazioni che insomma la scuola, università giustamente non siano l'ascensore sociale di cui hanno diritto, però di fronte alla protesta, la protesta è anche una specie di griglia attraverso la quale ci si formano delle idee su come, dove, cosa è giusto protestare, fino a che limiti e poi con quali meccanismi di responsabilità. Intanto io devo dire che la maggioranza dei nostri ascoltatori la pensano un po' come Mauro D'Alegnano, che ci manda un sms che dice: guardi, a mio modesto parere dovrebbero pagare le famiglie e gli studenti che i danni hanno provocato, quando i danni ci sono. Ho 3 figli, 2 universitari e 1 liceale, nessuno dei 3 ha mai partecipato a devastazioni, danneggiamenti, nemmeno manifestazioni violente, pur avendo ciascuno di loro espresso una serie dovute nei modi dovuti, idee, dissensi e proposte, ma io mi rifiuterei di pagare per danni provocati da altri, fino a dire alle vie legali. Quindi di fronte alla delibera del Consiglio d'Istituto del Gelasio Caetani, il più mi pare dei nostri ascoltatori dicono: come, io devo pagare per chi non ha fatto danni? Sentiamo come la pensa Roberto da Verona. Prego Roberto. Sì, buongiorno dottor Zannino. Ecco, io mi rifaccio a 2 parole che lei ha detto poco fa, quando parlava di strumenti spuntati a proposito della possibilità di contenere questi danni. Io credo che la linea del liceo Caetani sia una linea giusta, ma anche questa linea ha gli strumenti spuntati, e vorrei chiedere, se una famiglia non paga, che cosa fa il liceo? Cosa fa un decreto ingiuntivo per 50 euro non versato da una famiglia? Se poi una famiglia non paga, ci sarà sicuramente un passaparola, ma se non paga lui, non paga anche io. Non c'è dubbio. Legittima domanda, chiediamo al professor Nardone di rispondere. Sentiamo ancora Renato che ci chiama dalla provincia di Chieti. Prego Renato. Buongiorno, sono d'accordo con quanto espresso dall'ascoltatore precedente, però volevo pormi anche un altro quesito, ma dobbiamo continuare ancora con questa mitologia del bravo studente dentro e del cattivo infiltrato fuori? Lei mi invita a nozze, però sa, io non voglio sembrare il repressore così lontano dalla linea del Quirinale che chiede a tutti l'ascolto. Io sono dell'idea che una società ordinata prevede dei meccanismi di individuazione ordinari delle responsabilità. Non credo di appartenere a un trapassato remoto, visto che mi sono impegnato nel mio liceo, ripeto, per impedire che girassero pistole che hanno prodotto vittime. Quindi noi ce la siamo creata sul campo, la nostra cosa di minoranza esposta alle violenze, esposta in quegli anni, ce la siamo dovuta creare sul campo, e proprio per questo io credo che nella mia generazione non debba abdicare, senza confondere i tempi. I ragazzi di oggi non sono alle prese con i problemi di allora, non ci sono gli estremismi violenti e irresponsabili di allora. Detto questo, io penso che faccia parte dell'ordinaria amministrazione di una società che preserva istituti e baluardi di che cosa significa diritto e democrazia, che gli studenti abbiano ben chiaro che chi fa queste cose va accertato preventivamente e sottoposto successivamente alla responsabilità del caso. Abbiamo ascoltato che la presidente degli studenti dice no, ma non bisogna gravare sugli studenti. Io penso invece che agli studenti noi queste cose dobbiamo chiederle, e poi anche esporre loro e le loro famiglie di fronte a chi i danni li ha fatti. Questo è... Però come si fa? Adesso il professor Nardone, che risponde a chi ha detto ma insomma, se io fossi della famiglia, avessi un figlio lì al Caetani, dico ma io non pago. E a quel punto che succede? Che può fare il professor Nardone? Qui siamo al solito discorso prima del gioco del Cerino, e il Cerino è tornato inevitabilmente a me. E qui non si tratta di fare ideologia, sono tre volte che lo ripeto e non mi stancherò di ripeterla ancora. Qui c'è il problema: domani, il 10, ricominciano le scuole, i ragazzi hanno due alternative, o fanno IM, to be o not to be, a scuola con il professore che te lo dice davanti, quindi la lezione cattedratica, oppure la fanno in un laboratorio. Abbiamo sentito l'assessore della provincia che ci dice che non ci sono i soldi, dice che sono un anticipo, e quindi la scelta è molto semplice: out, non ci sono altre alternative. So benissimo che ci saranno dei professori, dei genitori che mi denunceranno per abuso di potere, per oltretutto tutte le responsabilità sono del preside, perché il preside viene pagato, dico io, dico che viene pagato anche per fare un po' da capro espiatorio, per fare un po' da parafulmine, fa parte un po' del mestiere. Abbiamo voluto l'autonomia, noi come Associazione Nazionale Presidi ci siamo battuti tantissimo per l'autonomia, e è un bene, non vorremmo buttare il bambino con l'acqua sporca. E questo però comporta che l'autonomia esponga anche a delle responsabilità. La mia conclusione, perché io lo posso chiedere al professor Nardone di rispondere lui da solo, è che il professor Nardone comunque è un esempio, perché ha, di fronte a un problema, ha individuato un meccanismo di responsabilità e dice con grande serietà: guardate, per i personali laboratori ci vogliono soldi, non ci sono, volete provvedere? Questa è la linea, questo istituto l'ha adottata. Io penso che sia un esempio. Non sarei d'accordo, ma purtroppo penso che così le famiglie, se pagano, e se pagano io mi auguro che paghino, capiscono che devono essere più coinvolte, non lasciare il solo dirigente scolastico, i soli professori, devono occuparsi di come nella testa dei loro figli. Anche un'occupazione alla forma di protesta va sempre declinata con la responsabilità, il limite e il dovere, che sono l'altra faccia della democrazia, altrimenti è caos, anomia, anarchia, che poi diventa responsabilità di violenza esercitata da minoranze che credono di farlo in nome della storia. È sempre così. Quindi, e ai genitori il mio messaggio: il professor Nardone ha ragione, anche se la forma della richiesta finanziaria non ci piace. Con il professor Nardone si fa un passo avanti, con i figli abbandonati a se stessi si fa un passo indietro. L'appuntamento domani, linea al giornale radio.